Friuli nel mondo, 242esima trasmissione dedicata ai nostri emigrati. Crociera d'amore in Argentina. In occasione del 12° congresso delle società friulane, circa 300 familiari di nostri emigrati sono partiti nei giorni scorsi con due aerei charter alla volta dell'Argentina per visitare i loro cari disseminati nelle più disparate località della vasta Repubblica del Plata. Alle migliaia di nostri corregionali presenti al congresso, svoltosi a Villa Regina, una cittadina ai limiti della Patagonia, ed ivi convenuti anche da zone lontanissime, hanno recato il saluto della terra d'origine l'assessore regionale all'emigrazione Romano, il vicepresidente dell'ente Friuli nel mondo Vitale, nonché sindaci e amministratori delle province e di comuni friulani. A sigillare lo spirito di friulanità dei commoventi incontri che si sono succeduti negli indimenticabili 20 giorni, da Buenos Aires a Villa Regina, da La Plata a Santa Fe, da Avellaneda a Rosario, da Bariloche a Córdoba, da Colonia Caroja a Villa Bosch, da Paraná a Florencio Varela, hanno validamente contribuito il gruppo folcloristico Federico Angelica dei Danzerini di Aviano e il quartetto vocale Stella Alpina di Cordenons. Ai componenti questi due attivissimi complessi che stanno concludendo, tra le tante all'estero per i nostri emigrati, la più impegnativa crociera d'amore, suscitando tanto entusiasmo e momenti di indicibile commozione, vogliamo dedicare, riconoscenti, la trasmissione odierna, presentandovi, cari amici, alcuni canti nell'esecuzione dello stesso quartetto di Cordenons e la musica di due tipiche danze nostrane nelle quali eccellono gli infaticabili danzerini di Aviano. Su Pavalcialda, Osvalda, una ragazza dalle lunghe trecce pendenti, ha infiammato il cuore di un giovane mentre si recava su per Valcalda, complice inconsapevole il grembiule di seta nera. Quanco levi su Pavalcialda io, mi clama Svalda, Svalda, io speranzona del mio cor. Ioi, ioi, tra-la-la-lin, la-le-le, ioi, ioi, tra-la-la-lin, la-le. Che Grimaldi seta nera, io sperazzona del mio cor. Non ubesio mai viodu, dalla me rovina io, sulla flor da gioventù, io, io, tra la lin la lele, io, io, tra la lin la la. Montagnutis ribasaisi. Colui che ha dovuto partire ed è lontano chiede alle sue care montagne di abbassarsi in modo che possa ancora vedere per una volta il luogo dove si recava con l'innamorata. Questa, a sua volta, vorrebbe potergli mandare il suo saluto attraverso una stella. Fai un fregul, fai un fregul. anche une volte la come vi la colle mia fa l'amor ovo stelle ovo stelle se s'avessi svelato un salut ad dite voi io per voi voleres mandar L'Allegrie Aeda Isovins. Questo è uno dei più noti e diffusi canti friulani. Dopo aver qualificato come vecchi tutti quelli già sposati e affermato che l'allegria non fa più parte del loro bagaglio, una ragazza prosegue. Ditemi chi è quel ragazzo con un fiore sul cappello. Sono capace di andare a vedere se è bello e di chiedergli se mi vuole. Non occorre che sia ricco. Mi basta un contadino che mi dia da mangiare a sazietà polenta e fagioli. E l'allegria è dai sovi, e l'allegria è dai sovi, e l'allegria è dai sovi, e non dei vecchius marità. E ma chi è lui che la lavie, e ma chi è lui che la lavie, e ma chi è lui che la lavie, e col garoffo sul ciapiello. E se mi salte io voglio la vie, e se mi salte io voglio la vie, e se mi salte io voglio la vie, e vai a più di salle e salle io lo domandi, e salle io lo domandi, e salle io lo domandi, e salle bru lo lassi stare. E cioilu, e tu ninine, e cioilu, tu ninine, e cioilu, e tu ninine, e cale un fi di un buon parol. All'alciavalle la carete, all'alciavalle la carete, all'alciavalle la carete, e parmena ti apporterò. E io non voglio tanti pretesi, e io non voglio tanti pretesi, e io non voglio tanti pretesi, a me me basta un contadino. E cammi dai mangia polente, e cammi dai mangia polente, e cammi dai mangia polente, e dei fasuoi a plencia di. Ed ora la gioia di una polca, la Vianese, e di un valzer mazurka, il Ciclamino, con i danzerini di Aviano. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.